professore, se ci siete per un controllo, con la buonasera. Eia, buonasera, chi è? Avanti. Eia, buonasera, Barracuda da Rossi. Un controllo per cortesia. Sia di radio che di Santiago, per la cortesia. Qua Eugenio B2, buonasera, Santiago 9, Radio Super 5. Pisa, sì, B2. O mobile, sì. Perfetto, perfetto. Un attimino, sta arrivando, un attimo. Attento, Barracuda. E chi me? E a sempre Eugenio. Ma perfetto, va bene la radio, come stavo chiamando alcuni cavi, devo regolare, abbassare, aumentare, troppo cupo, va bene? Ma io ti ascolto benissimo, non lo so gli altri, però io ti ascolto benissimo. Dammi un controllo tu invece. E da parte mia, Santiago 7, Radio 5. Ah, usci, andava, dai, va bene, va bene. Io sono quello che usciva il camper, ti ricordi? Eia, no, già meno male, anche se... Aspetta, regolo una cosa qua, non sto frequentando molto, però sto sempre radioascolto, per quello non c'è problema, oggi stavamo alcune rifiniture. Sì, va bene, ma più che bene. Ascolta, ma sei la teoria fissa adesso, così è? Sì, Rogero, sì, a casa. Guarda un po' si è aumentato adesso, il segnale. Sì, a questo sei quasi Santiago 8, la radio è rimasta invariata, sempre 5, pulita. Leggermente si Santiago, di un'attacca è salito. Va bene, ok, d'accordo, sì, comunque sono a casa. Adesso sei sceso, confermi? È toccato qualcosa, è regolato, perché adesso sei sceso di nuovo come Santiago. Confermo. E vabbè, io esco sempre con i 4 watt, normale. Non ho grandi pretese, anche se ho un bel apparato, però esco sempre con i watt normali, sennò è un casino. No, anche io lo stesso, vabbè. Adesso sono 4 portanti e fissa e modulati. Oh, è quasi 8, dai, modulati. 4 fissa e quasi 8, fa una cosellata modulata. Però anche io sempre con l'apparato omologato, già va bene. E che antenne ti hai messo? Una Gran P, una Sigma, non me lo ricordo il nome, Gran P mi sembra. Quella lunga, 3 radiali che scendono. Ah, capito, lo tiro lungo e radiali in verticale, no, orizzontale, leggermente inclinati rimangono, sì, 3 radiali inclinati e al centro un radiale in altezza. Esatto, sì. Va bene, dai, ti saluto che è arrivata gente a casa, ci sentiamo dopo, casomai se ci si, dai. Via, va benissimo, come stai facendo benissimo, ti metto l'antenna un pochettino più superiore e vai alla grande, comunque va più che bene adesso, dai, a piccoli passi, va bene, ci sentiamo le prossime, dai, buon proseguimento. Ciao, ci sentiamo.